piano nella quotidianità. Solo così il peso degli anni scompare. Le unghie delle tue mani sono come quando eri piccoli. Cominciamo a cercare, insieme. Come quella volta, ricordi? Quando non volevamo andarcene dal mare, ci siamo nascoste dietro gli scogli. E gli altri ci hanno fatto uno scherzo, fingendo di andare via per davvero. La volta che, mentre cercavamo quelli da cui ci eravamo nascoste, abbiamo trovato una bambina piccola alla ricerca della mamma. Quella bambina, persa come noi. Banhai, come la mia metà che è intera. Sono il filo sottile, così sottile che si infila e si tende prolungandosi, così sottile che non si spezza. E il groviglio dei fili si allarga e mostra chiari e ben stretti i nodi, pur distanti l'uno dall'altro, che non si sciolgono. Sono una traccia in quel groviglio e il mio principio appartiene a quello multiplo. Il mio principio è Barney. Mentre mangiamo insieme dal piatto comune, siamo sedute per terra l'una accanto all'altra e i maschi ridono per come tengo le gambe. Sulla stoia le ginocchia si toccano, una gamba di qua e una di là. Non ti si spezzano dal bulei? Vedessi quando corre quanto fa ridere. I polpacci che vanno a destra e a sinistra. Barney! Persino i maschi hanno paura di lei. Si alza e li prende per il collo. Graffia. Dovresti vedere come graffia. Nessuno si azzarda a scherzare. Il piatto quasi pieno si rovescia. Ed eccola, la mia Barney, con la sua voglia a cuore proprio in mezzo alla fronte, che corre a protestare. Mai un giorno che si possa mangiare senza dover fare a botte con questi prepotenti. Ve lo faccio vedere io chi è più forte. Io ci ho provato una volta. Volevo essere come lei. Ma di Barney ce n'è una sola. Il mio principio è noi due che ci infiliamo in cucina. Vediamo la papaya tutta aperta, con i suoi semini tondi tondi, ed ecco, un po' a te, un po' a me, un po' a te, un po' a me. E poi corriamo in cortile e facciamo una buca profonda nella sabbia rossa. Domani torniamo e magari, chissà, è spuntato qualcosa? Il mio principio è Barney che mi dice coraggio. Quel giorno che hanno messo la trappola per il gatto, quello che rubava sempre la carne dal cesto della spesa. E ora che l'hanno beccato gli danno tante di quelle bastonate che non riesco neanche a guardare. L'hanno buttato per strada. Ma quello è tornato. Ora non ruba più la carne. Ha un occhio raggrinzito. Il mio principio sembra spezzarsi quel giorno, mentre Barney mi sta pettinando i capelli per la partenza. Così tua nonna vedrà come sei diventata bella. Spalma l'olio di cocco e separa le ciocche. E io dico, Barney, non vedo niente. Mi sembra come una nuvola nera davanti agli occhi. E poi mi manca il respiro e sento solo l'acqua fredda che mi scende dalla fronte al petto. Ha perso coscienza, dicono. Domenica! Domenica! E mentre mi chiamano, io ricomincio a vedere gli occhi di Barney che mi fissano così vicini. Allora io le dico, Abbaio, io non voglio più chiamarmi con questo nome che fa ridere tutti. E lei dice: non ti preoccupare, d'ora in avanti ti chiamerai Ahad, come il principio. Barney mia, quello che sapevi di me, niente è rimasto uguale. Notizie ti devono essere arrivate da qualche parte, dei miei anni, dei miei trascorsi. Anche il discorrere, il mio modo di parlare è cambiato. Come dicono, siamo spugne noi mescolati, mescolati viaggiatori. Quante lingue ho voluto imparare qua e là per entrare dentro la gente. Perché sai, alla fine in tanta parte di mondo vissuto è sempre così, dentro le nostre case somale, in tutto e per tutto. Potevi anche non vederlo il contorno, ignorare la temperatura dell'aria, non ascoltare le altre voci, vivere solo tra di noi, imparare lo stretto necessario. Tentavo all'inizio, bolla di sapone trasportata dal vento, di ritrovare a caso i miei percorsi. Se ti dicessi quando tutto è iniziato. Questo aeroporto, in questa città, e lì ben, accanto a me. Di guerra, sentieri intrecciati. Se ti avessi incontrata prima, ma no, era questo il momento. Il principio è follia di smarrimento. Storia mia che avevo rimosso di tante separazioni. Ti ho lasciata, sorella mia. Sono partita e ho cancellato tutto d'un colpo. 9 anni. Avevamo 9 e 10 anni quando ci siamo viste l'ultima volta, ricordi? Sapevamo forse che ci saremmo ritrovate oggi, dopo più di 20 anni. Ma gli affetti profondi sono di fibra sotterranea, persistente. 20 anni, ti dicevo, spezzati a metà. La prima metà, una vita qui. Dimenticanze. Ho cancellato il somalo rapidamente. Rimuovere. La nostra mente fa questo. Chiude dentro gli armadi, vicina a mia madre, lontana da mio padre. Dovevo disambientarmi rapidamente. Cancellare un territorio della memoria e costruirne uno nuovo, coordinate che mi mancavano. Ho rattoppato, qua e là, l'assenza di mio padre. Toppe che prima o poi dovevano scucirsi. Barlumi di luce, Barney, quando ti sognavo. Sempre lo stesso sogno. Arrivavo, ma non riuscivo mai a vederti. Qualcuna che però non eri tu. Viso che si deforma. Poi... anche i sogni mi hanno lasciata. Ho vissuto mimetizzandomi. La seconda metà dei 20 anni trascorsi. Vita di diaspora. Peregrinazioni senza destino. Com'è accaduto? Ti dicevo del viaggio postumo. Sono arrivata in una città da evacuare. Mogadiscio dei miei natali. È lì Ben che mi ha salvata. Dal panico, dallo scoramento. Siamo tornati a Roma insieme sull'ultimo volo di linea. Fermarci per poco. Oramai il mio destino era il suo destino. Languivo. Un dolore persistente da capogiro. Non mi dava tregua. La notte con gli occhi spalancati. Le ore passavano con quel rodimento. Come un piccolo scalpello che scava minuziosamente la carne. Cercavo dentro di me le radici dell'esistenza e volevo recuperare. Disordinatamente. Disordinata è stata la mia vita. Ora, forse un po' di pace. Raccontarti tutti gli abiti indossati. Avanzando con la storia forse farai qualche chiarezza. La troveremo. Perché è in questo delirio che mi dipanavo a Roma, città tutta nuova dove ora sono tornata, tanto diversa dalla provincia che avevo vissuto, provincia di tante certezze. Questa città invece mi lasciava perdere, senza orari, senza luoghi. Vagavo e i nomi delle vie non significavano nulla. Guardavo la gente vergognandomi. Io, così meschinamente fuori posto, ragione di tanto dolore, non riuscivo a trovarla. Io, nella mia pochezza, sai, mi davo un disgusto, non so come dire, quella tristezza senza nome, fissità di luogo. È che dentro di me, molto profondamente, sentivo svuotati gli involucri. Cosa ne era della mia vita, del suo significato, ora? Lampo che ti acceca, cesura per me, domenica. Vivere un giorno di guerra a Mogadiscio significava nascere di nuovo, cambiare pelle, reincarnarmi. Potevo tornare a vivere come prima, vivere nella città di provincia, con il mio fidanzato e i pranzi domenicali, sposarmi, fare figli nella pace della monotonia. La vita a volte è un farsi troppe domande. Ma io... piangere no, non volevo, piuttosto sollevarmi la pelle. Ragnatele di segni sulla mia superficie. Mi chiedevano cosa mi ero fatta in molti, sussultavo, segreti svelati. Ma sai, ero talmente separata, non riuscivo a parlare. Le braccia coperte da maglie lunghe, solo le mani si vedevano, intarsiate. Liben mi teneva vicino a sé per quanto poteva. Si sentiva responsabile. Ciò che mi ha fatto meraviglia è che lui non si è mai chiesto dei miei legami con l'Italia. Per Liben era come se fossi partita insieme a lui da Mogadiscio. E basta. Uguale destino. È per questo forse che tutto è iniziato. A Termini, io partivo da zero insieme agli altri. Da quel crocevia. Coagulo di dolore, anticamera dell'oblio. Di quel viaggio non ricordo quasi nulla. Il fatto è che Liben viaggiava con documenti falsi e io non dovevo pensarci. I miei documenti, documenti italiani, valevano sempre e ovunque. Sono documenti della roccaforte. Liben... foto diversa, faccia diversa. In tutti i momenti pensavo, se ne accorgeranno. Ma i doganieri neri sembrano tutti uguali. Credevo che se ne sarebbero accorti, invece Liben cambiava nome per sempre. Io ho continuato a chiamarlo con il suo, quello vero. Prova a immaginare, a ogni frontiera. È che anch'io avevo paura. Paura di essere cercata, paura di non esserlo. Qualcuno si stava chiedendo dove ero finita? Sì, per certo. Sentire mia madre. Mia madre era ancora all'aeroporto ad aspettarmi. E di Tariq, mio padre. Mi dà una rabbia. Rabbia di sconfitta. Rassegnazione senza lotta, perché troppe volte ho sognato che mi raggiungesse. Così lontane le nostre strade... desidererei che si incontrassero, finalmente in mezzo. Ma ti dicevo di Liben. Io e Liben in una macchina verso il nord. Una macchina mezza scassata. Una Y10 ridipinta di azzurro. Un cielo di piombo e quell'asciuttezza invernale che lui vedeva per la prima volta. Nord. Bianco che sopravanza. Biancore di pulizia e io accoccolata nella macchina con la copertina celeste che regalano sull'aereo. Morbidezza di viaggio. Senza dire niente, svuotavo i miei pensieri. Nella borsa, a portata di mano, un tubetto di cicatrizzante per le mie ragnatele. Avevo tante cose da ascoltare. Liben mi avrebbe raccontato dei nostri progetti, del futuro, di come sarebbe stato sempre tutto imprevedibile. E intanto i panorami cambiavano. Piemonte e laghi svizzeri, Germania e rettilinei veloci. E ovunque potevo fermarmi, indifferentemente. Paesi Bassi, nostra destinazione. Campi, monotonia di campi e una densità inconfondibile. È lì che ci saremmo stabiliti, io e Liben. Io e Liben. 9 anni di infanzia condivisa. Ci sono legami principiati in culla che non si diluiscono mai. Liben, figlio del fratello di mio padre, mio quasi fratello. Liben, che sorseggia lentamente la sua Fanta quando tutti l'hanno finita. Il primo che finisce i compiti, anche solo per avere il gusto di sbeffeggiarci. Liben, contagiato dalla moda dilagante di allevare piccioni viaggiatori. Liben che ci ha convinti ad aprire una cassa comune per comprarci una palla di cuoio. Le strade sabbiose del quartiere Bonderi, il nostro campo di calcio. Noi piccoli che guardiamo rasentando i muri delle case e accucciati all'ombra guardiamo gli appena più grandi giocare. E i bambini che si sbellicavano dal ridere quando passava mia madre urlando a tutto grido gal gal gal gal gal gal gal, quasi sdraiati per terra, rimescolando la sabbia con le mani. Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal. Si divertivano tanto. Liben, ricordi mescolati alla riconoscenza. Come di chi mi ha salvato. Come da chi desideravo apprendere tutto, a piene labbra. Il soma l'ho dimenticato. Sul mio taccuino ogni giorno appuntavo parole, verbi da memorizzare. Modo occidentale, diceva Liben. Secondo lui solo dalla viva voce si impara. Si prendeva gioco di me. Sai, per lui ero come pasta d'argilla da modellare. Ero la sua appartenenza. Dei miei passati poco gli importava. Questo l'ho capito molto più tardi. All'inizio lui per me era fonte a cui abbeverarmi. Incautamente. Ricordo di quella festa. Era una bella festa di matrimonio, di quelle in cui si sta tutti uniti. Non come al solito, con le donne da una parte e gli uomini dall'altra. C'erano persino degli occidentali. Tutte le volte che provavo a dirlo di quanto sono assurde quelle feste, tutte mi si rivolgono contro. Si vede che tua madre è una gal. Tutto qui. Si vede che tua madre è una gal, mezza bianca che non sa come ci si comporta. Roba da mettere a tacere chiunque, ma dimmi tu. Ballare ballano divinamente. Tra donne, con le anche strette nel garbasar, il culo come parte a sé, sexy da morire. Non fosse per la mole. Mole e pregiudizio di donna mezza western? questi non sono gusti somali. All'uomo somalo piace carne tremula, soda di freschezza. Si dà, si dà, si dà. E ci danno dentro, madide di sudore, piegate quasi a terra. Ballare tra donne si può, ma videoregistrare il ballo per trovare marito da qualche parte nel mondo, questo è concesso? La telecamera piantata su quei fianchi vibranti, gli uomini che li guarderanno palpando lo schermo e i reporter improvvisati eccitati da tanta visione. Ma loro possono, anzi devono entrare, altrimenti il film chi lo farebbe? Ma le feste di sole donne non sono nel mio stile. Se devo ballare per qualcuno, io ballo liberamente. E quella sera, quella festa mista, eravamo tutti sulla pista da ballo e io mi stavo davvero divertendo. Ballavo, ballavo tanto, io amo ballare. Finché a un certo punto una tizia mi è venuta dietro, picchiettandomi sulla pelle umida, come per bussare sulla scapola. Sorella, lo sai che sei nuda? Mi ha detto sottovoce. La mia amica, Ayan, l'indiavolata, era di fronte a me e si è subito accostata. Certo che lo sa. Certo che si ricorda quello che si è messa. Questo vestito nuovo è costato $150. Questa scollatura che vedi vale $150. Mi ha difesa. Ma la voglia di ballare mi è passata tutta, all'improvviso, con il mio vestito color prugna matura. Un vestito lungo, come guanto che avvolge le linee. Ho cercato lì ben con gli occhi. Era lì, poco distante, che ridacchiava, solo a un tavolo, con la sigaretta in mano e la sua espressione di scherzo. Mi osservava, senza distogliere lo sguardo, sin dal principio, come corpo suo. Allora mi sono avvicinata e gli ho chiesto: perché? Nuvola di fumo in faccia. Tu fai come le gal, mi ha detto. Loro ti fanno vedere una gamba, così la schiena. Il corpo non ha valore. Ma sognare una donna è diverso. Tu la sogni splendida, intera, per te. Non vedi? E puoi sognare. Io ascoltavo. Tutto, parole sue. Pendevo dal suo sguardo. Mi sono seduta accanto a lui. E con l'indice mi ha percorso tutta la schiena. Coprila. Mettiti un garbasar, mi ha detto. Si prendeva delle licenze. Io, capisci, lo ammiravo. Uomo di certezze, ambientato rapidamente. Liben, uomo di mondo. Il Ba, occhio in avanti. Lavorava con i computer e parlava l'inglese così bene come io non l'ho mai imparato. E poi scherzava con i gal. Il modo di ridere, il loro umorismo, lui lo capiva. Finché sei con me non devi lavorare, mi diceva. E io restavo con lui, inseparabilmente. Ma dal nodo che ci univa, dalla sua natura, io e Liben eravamo sciolti. Di impegni presi non ne avevamo. Liben, delle mie coerenze. Barney, come spiegarti, un desiderio così è come fiamma accesa. Io sentivo di vivere per lui, di essere viva perché lui l'aveva voluto, compiacerlo, il mio ardimento. Avevo lasciato la mia valigia all'aeroporto di Roma, proseguivo adattandomi. Ayan, l'indiavolata, cercava la mia amicizia. Forse perché da me non sentiva il giudizio? A Liben Ayan non piaceva. Donna emancipata, lo provocava. Ayan che fumava in pubblico, che si tingeva i capelli di un colore ramato e che usava un rossetto sanguigno per le labbra, petali di carne. Insieme a lei anche io avevo cominciato a fumare, tingermi i capelli di rame e le labbra color carne. Liben scuoteva la testa, senza dire niente, così. Fino a quella sera, il giorno della festa. Disapprovare disapprovavano tutti, me e Ayan, entrambe. Ma a me importava solo di Liben. Una mattina mi sono svegliata presto. I miei capelli richiedono molte cure. Pettinarli tutti con il balsamo, morbidezza che scorre, è un lavoro settimanale. Asciugati li ho raccolti in una treccia, infilandoli tutti in un velo qualsiasi, color crema. Quando Liben si è svegliato, io ero già in cucina ad aspettarlo. Diffuso nell'aria un odore tostato. Mi si è seduto accanto, con la sua tazza di caffè, cercando i miei piedi nascosti nel vestito. Del velo sembrava non essersi accorto, ma da quel momento l'ho continuato a portare, ogni giorno, e ho smesso di tingermi le labbra in modo così provocante. Ayan pensava che mi avesse convinta lui. Non riusciva a spiegarsi il nostro legame fino in fondo, e neanche io ci riuscivo. Fumare e continuavo a fumare. Un giorno ero alla fermata dell'autobus e tenevo la sigaretta accesa nascosta nel palmo della mano. Liben mi ha vista da lontano. Allora l'ho buttata, distinto. Non so perché. Liben non mi rimproverava. E con la mano cercavo in borsa la bottiglietta di Qatar che mi aveva regalato a Ayan per profumarmi le dita. E mentre lui mi raggiungeva, ho tirato fuori il pacchetto di gomme da masticare. Ne vuoi una? Sei diventata credente, Ahad? Pensaci, Ahad. Puoi diventare credente se vuoi. Ma ricordati, 2 mesi fa ti tingevi i capelli. Eri rossa. I tuoi vestiti scollati, le tue labbra. E poi hai iniziato. Aveva una storia per farmi ridere. Ha detto che stava aspettando la metro tornando a casa e che ha visto una signora a 2 metri da lui. Era tutta coperta di grigio, dalla testa ai piedi, con il tusbah in mano. Fino a qui tutto normale. Poi ha cominciato ad alta voce: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ogni 2 secondi. Allahu Akbar! Gli veniva da ridere. Ha detto che la gente è convinta di fare il proprio dovere, con il sali sotto il braccio, e ora, ovunque, srotolando il tappeto per pregare. Continuava il racconto, Liben, per farmi ridere. E poi, non vorrei dirlo, con il culo in su, davanti a tutti, è volgare. Allora, come si dice in italiano? Modo? Una moda? Ecco, la religione è diventata questo, una moda. Poi si è fatto serio d'improvviso. Segui anche tu la moda? Ero come un animaletto colto in fallo. Vieni a casa con me, ha detto stringendomi il polso. Io accondiscendevo, seguendolo sempre. Seduta davanti allo specchio, lo guardavo alle mie spalle, mentre mi slacciava il nodo del velo, il velo rosa, colore di delicatezza, e scioglieva la treccia, infilando le dita tra i miei capelli. Ho passato più di 2 anni dipendendo da lui. In bilico, affanni intermittenti. Fino a quando è successo un fatto. Il nostro legame vischioso doveva interrompersi. Una sera eravamo in macchina insieme. Era il nostro rito. Ogni sera Liben mi portava in macchina a fare un giro. Era un girovagare spoglio. Andavamo in città a bere qualcosa, senza neppure scendere a passeggiare. L'aria troppo fredda. Io mi cullavo in questa abitudine. Ma quella sera Liben aveva un nervosismo, non so come dirti. Di solito era lui a parlare, e invece ora rimaneva in silenzio. Liben, dove mi porti? Devi avere pazienza. Poi, mentre ci avvicinavamo al quartiere, mi ha detto che stava andando da una sua amica, una divorziata. Divorziata. Ha detto proprio così. Dovevo aspettarlo in macchina 10 minuti. Solo 10 minuti, se li faceva bastare. 10 minuti per prendere un appuntamento. Io, Barney mia, non ho detto niente, nessuna parola. E neppure lui mi ha chiesto se avevo qualcosa da dire. Tante cose. Il significato di quei 10 minuti. Sai, è che si stava tutto deteriorando. Forse anche lui in questo modo cercava di separarsi da me. Perché volendo, avrebbe potuto trovare quei 10 minuti in ogni momento. Liben sapeva fin troppo bene che sarei scesa dalla macchina, che non mi avrebbe trovata accanto a lui. Quello che è venuto dopo, andare, separata, nel solo luogo che mi attendeva. Ayan, l'indiavolata, era la mia unica amica. E Liben lo sapeva, per questo si sentiva sicuro. Ha aspettato e poi ha provato a richiamarmi. Anche questo l'ha fatto con un'energia esaurita. Se solo avesse voluto, e io sento dentro di me che lui non voleva, io sarei tornata nella nostra casa subito. È stato meglio così. Non essere tornata. Liben dal primo momento mi riparava. Complicità ne avevamo troppa. E la mia era malattia di troppe solitudini. Oggi penso che doveva essere così. Di necessità, io e la mia strada. Con Liben mi sentivo in perpetua convalescenza. Dovevo guarire, leccarmi sola le ferite. Da mia sorella. Shamsa è a Londra con i suoi figli e le farebbe piacere vederti. Mi manovrava ancora. Sai, di quegli anni, quello che non riesco a fare è descrivere i luoghi. Era tutto un movimento, da una casa all'altra. Essere, potevi essere ovunque. Per me e per noi tutti era indifferente. Ti dovevi solo abituare alle insegne diverse, i prezzi diversi e ricostruire la mappa. Mappa dei legami con gli altri e i luoghi snodi dove incontrarsi, dove telefonare, dove comprare, come perennemente trasportati nella bolla d'aria. E dentro la bolla il nostro suono, il nostro odore. Suoni e odori così pungenti da coprire tutti gli altri. I luoghi. Raccontarli è così difficile. Ma con la telecamera forse puoi addomesticare quegli odori e quei suoni avvolgenti. Ecco, io ho cominciato lontano da Liben a usare la telecamera. Apparecchio che mi aveva regalato lui, rimasto nella sua stessa confezione sopra l'armadio. Ora partivo dai Paesi Bassi. Salutavo quel luogo, luogo di Liben, così pieno della sua presenza, della sua protezione, del suo giudizio, luogo da cui mi allontanavo per andare da Shamsa. Barney, tu, Shamsa e Liben siete cresciuti insieme. Voi sì, come fratelli. Raccontare è molto, molto limitante. Vivere è troppo di più. Quello che ho sentito di vedere. Perché lontano da Liben io mi sollecitavo. E Shamsa, mia cugina, aveva bisogno di essere aiutata. Era a Londra, come me, provvisoriamente. Quanta gente ho incontrato negli anni provvisori in un paese da molto, troppo tempo per dire provvisoriamente. Quello che Shamsa voleva era scappare da suo marito. Poteva andare dove andavano tutti, a Londra. Ma Shamsa aveva fatto i suoi conti. Io gli ho detto: Shamsa, i tuoi figli. Sono tanti anni che abiti in Finlandia. Quello che hanno imparato, quello che hai ottenuto. E lei boccheggiava. Quando la penso, vedo una macchia di rossetto sbavato e vetri perennemente appannati. Sarà l'effetto del freddo di cui mi parlava. Shamsa scappava dal marito. Da tanta disperazione, da tanta solitudine. Immagina Barney con tutti quei bambini. E non che io ne sappia molto dei bambini, solo di una cosa sono certa, ed è che li amo con amore di pazienza infinita. Una vita con tanti bambini io la tolleravo, ma dico per me, dico per tutte. L'essere troppo è sempre una cosa, solo quella, sole al mondo. A questo nessuna può resistere. Ed è ciò che ho capito con Shamsa. Perché di quella vita io non sapevo niente. Ed è con lei che ho visto i bambini vivere indipendenti come adulti, ma teneri di cuore, come Mollica. E che Shamsa ne aveva tanti di bambini. E nessuno che l'aiutasse. E che immaginare anche solo 10 minuti al bagno. Tu ti lavi con tanta fretta per il timore che i bambini si facciano male, e i due più piccoli affacciati alla vasca da bagno, mentre canti una canzone per tenerli fermi vicino a te. Shururu, mammo, shururu, legge, shururu. La canzone continua e tu tieni gli occhi fissi sulla pentola che bolle. Attenta, che tanto si sente di bambini ustionati d'acqua bollente a non inciampare sul piccolo che ti cammina tra le gambe divaricate. E quando devi scendere a comprare anche solo il latte, con questo freddo e tutto il latte che consumano queste creature. Il marito che sparisce senza preavviso e non ti sei ancora rassegnata a pianificare la vita senza di lui. Senza di lui. E senza una sola persona di casa tua. Fuggire. Il coraggio di scappare, Shamsa l'aveva trovato. E io andavo, mandata da Liben, in suo soccorso. Tu sai, io sono rimasta finché non è tornata indietro, in Finlandia. L'ha convinta il marito. Non potevo interferire. In quei mesi, accanto ai bambini, ho imparato dalla loro gioia. Ho visto Shamsa recuperare le forze. Instancabilmente desiderava la mia presenza. Quasi non riuscisse più a fare a meno di me. Temeva di nuovo quella stessa solitudine. Io mi sono domandata come faceva prima, come ha fatto dopo. Amicizie. Tempo di madre non permette di stringere nuovi legami. Sono fin troppi quelli da innaffiare. E poi io non credo che Shamsa volesse disfarsi del marito. Voleva che lui cambiasse, ecco. E anche lui la rivoleva indietro. Shamsa gli aveva dato molti figli. E lui voleva occuparsi della loro educazione. Bastava che tirasse in ballo la religione. Mi saliva un disgusto. Ma guai a dirlo. Shamsa gli credeva. La vedevo. Quando lui chiamava la sera, noi due eravamo svegli a godere quell'ora di libertà e di silenzio. Le spalmavo lo smalto sulle unghie dei piedi. E Shamsa diceva al marito che con me aveva persino ritrovato il tempo di mettersi il rossetto prima di uscire. Del resto, Shamsa era una meraviglia. Non di quelle madri che la mattina urlano come ossesse perché i bambini si sbrighino. Ne ho viste tante. Lei cantava. Cantava e parlava con voce bassa, senza rimproveri. I bambini sapevano troppo bene che non potevano infierire su di lei. Si muovevano delicatamente. Solo in presenza del padre li ho visti forsennati. Saggezza di equilibrio. Quello di cui sono certa è che Shamsa non faceva sul serio quando è partita per Londra. Troppo poco tempo ci ha messo per dissuadersi. Il marito chiamava a mezzanotte e lei fremeva. Sarebbe bastato avere qualche cosa da fare, una ragione, per preferire un luogo a un altro. Ma senza radice, senza ragione dominante, un luogo perde rilevanza. Ecco perché l'ho aiutata a trasferirsi nuovamente. A ritornare in Finlandia, là dove erano nati i suoi figli. Io sola non bastavo. A Londra Shamsa stava meglio. Ritrovava i volti di casa, numerosi in quella città. Londra era dove stavano andando tutti. Immagina, stormi d'uccelli migratori al di qua delle nuvole. Tracciano segni e mappe intricate, svolgendosi e rivolgendosi all'infinito, come se quell'allargarsi e stringersi vorticosamente su verso l'alto, tromba d'aria in cammino, fosse l'essenza di quella sospensione, come se la parabola del movimento non fosse altro che la ricongiunzione di tutte le mete. Non doveva farmi meraviglia allora se dentro di me io mi trovavo ancora nella Y10, avvolta nella copertina celeste, quella che regalano sugli aerei. Londra, e insieme Roma, Toronto, Amsterdam, era la meta, meta infinita, senza la quale non si poteva spiccare il volo.